615. Offelle di marzapane. Servitevi della medesima pasta frolla indicata nella precedente ricetta e per ripieno, invece della marmellata, ponete il marzapane descritto al numero 579 e se non avete arancio candito, servitevi per odore dell'arancio fresco che è molto grato. A queste offelle potrete dare una forma diversa per distinguerle dalle altre. Io mi servo di uno stampo smerlato lungo 11 cm e largo 8,5 cm e lo piego in due formando una mezzaluna smerlata.